noi chiudiamo insomma il nostro giro di telefonate di oggi invece sentendo una compagna del Kesbilè, anche perché questo è l'ultimo venerdì per quest'anno, poi immagino riprenderanno l'anno prossimo, e quindi ci faceva piacere, anche visto che c'è un'iniziativa con un concerto, sentirle dalla viva voce che ce la raccontano. Ciao. Ciao, ciao a tutte. Ciao. Allora sì, ultimo appuntamento per l'anno, che è stato un anno veramente bello, con il concerto di Chiara Casarigo e Annalisa Baldi alla chitarra, e sarà, si intitola Canti d'amore e Canti di terra, e sono tutte canzoni tradizionali e non solo, stornelli, canzoni che attraversano un po' tutta l'Italia e vanno dal Canti delle Mondine a Canti del Salento, tutti quanti in chiave, insomma, con una lettura femminile che ricalca un po' la storia delle donne nella cultura popolare. Vanno di moda queste menestrelle, ce ne sono un po' in giro a Roma. Questo è uno dei tanti progetti di Chiara Casalico che ha voluto portare da noi e siamo molto contente per la prima volta di ospitarla al Kesbilè. Ma com'è andato quest'anno? Dai, raccontaci. Quest'anno è stato molto bello, devo dire, sia la, diciamo, la prima parte fino alla festa di giugno, dove invece è venuta a cantare Peppa, e abbiamo ripreso, abbiamo fatto una serata con il tango, abbiamo fatto insomma tante cose interessanti, e ne abbiamo anche altre in programmazione per l'anno prossimo. Verrà Giulia Nania a gennaio con il suo progetto su Gabriella Ferri. Ah, bello. E poi ci sarà una serata invece con le compagne del flamenco, e poi ci sarà anche un altro concerto a maggio, mi pare aprile o maggio, non mi ricordo, con Diana Tesera. Ma viene anche Patrizia. Viene anche Patrizia Cavalli. Patrizia Cavalli, non lo so. Dai, convincetela a venire. Non lo so, perché poi quest'anno devo dire che ogni anno ci mettiamo, abbiamo paura di non riuscire a riempire tutte le date, invece poi alla fine, avendo appunto un appuntamento al mese, riusciamo a fare una bella programmazione. Quindi quest'anno abbiamo anche uno spettacolo di Elena Rossi con Angela Soldano che si chiama L'Annuncio, e poi avremo anche delle serate di musica con, come sapete, insomma, varie DJ che ospitiamo, e insomma sarà una cosa interessante. Spero che verrete numerose. Ok, diciamo che il Kesbilè appunto è un punto di incontro, un posto anche dove proporre delle iniziative autoprodotte. Assolutamente persone, sì, anche donne, se quindi avete cose da proporre, io lancio una, come si dice, una call, contattate, esatto, e proponete. Ovviamente sono iniziative di sole donne, quindi anche le formazioni musicali a volte devono essere rimaneggiate per questo motivo qua, e quindi è uno spazio, diciamo, separatista che vogliamo mantenere così, anche perché penso sia uno degli ultimi di Roma e quindi ci teniamo particolarmente. E quindi lo diamo anche un riferimento, nel senso che chi volesse magari anche proporre per l'anno prossimo delle iniziative autoprodotte appunto di donne, c'è un riferimento mail che è info@kesbilè.it, e appunto l'appuntamento del Kesbilè è il terzo venerdì di ogni mese, quindi insomma ogni mese. Cioè, questo fino a maggio, perché poi la data di giugno, che sarà la festa finale nel giardino della Casa Internazionale, cercheremo di farla coincidere con il Pride di Roma, in modo che chi deve andare al nazionale, che non so quest'anno dove sarà, potrà andare, non ci sovrapporremo con le date. E niente, quindi anche su Facebook mi potete contattare, lo gestisco io, la pagina Facebook che è Kesbilè Donne, dove potete scrivermi e dire, insomma, e proporvi, e noi siamo ben contente di farvi venire da noi. E quindi diamo l'appuntamento che è per questo venerdì, giusto? Per questo venerdì e poi tutti i terzi venerdì del mese da qui fino a maggio. Quindi concerto che si intitola, lo spettacolo si intitola Canti d'amore e di terra, appunto un recita di canti d'amore e di corteggiamento. Ci sarà pure qualche pezzo della Rosa Balestreri che oggi appunto sentivamo, sì, qui sui nostri canali. Insomma, grazie mille, l'appuntamento a Kesbilè in via San Francesco di Sales 1B, Roma. Ciao, ciao, a presto. A presto. Ciao a tutte. Ciao, ciao.